Buonasera a tutti, gentili ascoltatori di Radio Cincilla. Come ogni anno, quando si avvicina il Natale, ci accingiamo a cominciare una nuova stagione radiofonica. Napoli in farmacia! Io cammino ogni notte. Vi siamo mancati negli ultimi mesi? Speriamo di sì. Almeno un pochino, vero? Qui si aprono per noi le porte della radio. Entrate, prego. Accomodatevi vicino a noi. Rilassatevi e preparatevi a volare con l'immaginazione alla ricerca della cultura e delle tradizioni del bel paese. Siamo pronti a tenervi compagnia durante i prossimi minuti. Restate con noi. Qui inizia Più di mille immagini, il programma della Scuola Ufficiale di Lingue di Albacete. Benvenuti. Figlia della Bastiglia, figlia della Bastiglia, sienta a me. Pamma fa dormir, pamma fa scordà il mio dolce amor. Figlia della Bastiglia, figlia della Bastiglia. Beh, vi presentiamo il primo argomento di stasera. Vedo che Pedro, un nostro compagno, si è già sistemato con il suo ospite in studio. Quindi gli cedo la parola e diamo il via alla prima parte del programma. Incontri. Buonasera. Oggi abbiamo in studio Stefano Urso, un nostro amico italiano che gentilmente ha accettato il nostro invito. Ti ringraziamo per la tua presenza nel nostro programma. Buonasera, grazie dell'invito. Un italiano ad Albacete. Come mai? Cosa sei venuto a fare nella nostra città? Beh, a lavorare. Ho fatto l'ultima parte della mia residenza in chirurgia nel nord della Spagna e poi mi hanno chiamato qui ad Albacete per lavorare in una clinica della città e sto molto bene, lavoro a gusto, come si dice qui. Hai abitato in altre città spagnole? Sì, ho vissuto per un anno a San Sebastián, che è un posto bellissimo, spettacolare. Ti sei adattato facilmente alla città, al clima, al cibo? Quali differenze trovi tra la vita in Spagna e quella in Italia? Allora, mi sono sicuramente adattato alla vita perché non è molto difficile da quella che si fa in Italia. Ci sono delle similitudini molto, molto forti. Relativamente al clima, io sono siciliano, quindi nel sud Italia il clima è molto più simile, diciamo, al clima di Valencia rispetto a quello di Albacete. Qui in Albacete fa molto più freddo in inverno e in estate c'è un caldo secco, mentre in Sicilia l'inverno dura molto poco e normalmente è mite. Mi sono abituato al cibo, che qui è buonissimo. E poi, relativamente, diciamo, alle differenze fondamentali tra Spagna e Italia, bisogna dire che in Italia in realtà ci sono diverse culture e diversi modi di vivere. Ecco, nel nord d'Italia la gente è più europea, più nordica, mentre nel sud, ecco, siamo forse più vicini, più simili a voi. Per cui io, che sono del sud, mi sono adattato perfettamente alla cultura spagnola. Anche alla gastronomia manchega. E anche alla gastronomia manchega, che è buonissima. Anche se devo dire che io non sono, diciamo, un patito, un fanatico della carne, che qua invece si usa molto, la carne di cacciagione soprattutto. A me piace più il pesce, però anche qui si trova, il pesce è buonissimo. Non mi lamento, diciamo, di come si mangia, perché si mangia molto bene. Quanto tempo pensi di rimanere qui? Beh, ancora non lo so, ecco, non ho dei progetti a lungo termine. Io sono qui per una esperienza lavorativa, professionale, però non ho, diciamo, ancora dei progetti per gli anni successivi. Sicuramente rimarrò ancora qui un anno e poi si vedrà. Adesso della lettura, quali sono i tuoi interessi? Quale autore spagnolo ti piace di più? Allora, tra i miei interessi c'è il cinema e la letteratura sicuramente. E tra gli autori spagnoli, non ho, diciamo, una conoscenza approfondita di tutti gli autori spagnoli, però ce n'è uno che ovviamente è famosissimo ed è il più famoso, che è il Cervantes, che abbiamo studiato a scuola e che poi ho letto successivamente, che è un autore ovviamente straordinario. Penso che forse sia lui l'autore che più diciamo conosciamo, che più mi piace, non solo per la originalità ma anche per la vita eccezionale che ha avuto questo scrittore, anche per la sorte, insomma, è stato uno scrittore un po' sfortunato, visto che gran parte, che tutto il suo successo gli arrivò quando già era morto, ed è una vicenda particolare che colpisce, insomma, i suoi lettori, che oggi sono milioni. E tra gli italiani, qual è il tuo autore preferito? Tra gli italiani, il mio autore è sicuramente Pirandello, Luigi Pirandello, che è un autore siciliano, dell'inizio del 1900, e che ha elaborato, diciamo, una filosofia, un modo di pensare e di scrivere particolarmente originale per l'epoca, da cui sono scaturiti non solo diversi romanzi ma molte opere teatrali e diversi racconti brevi, e sono tutti molto interessanti, che consiglio ai nostri ascoltatori. E cosa ti manca di più della tua regione? Il mare, il cibo? Perché consiglieresti di andare in Sicilia? Quale città siciliana ci proporresti di visitare? Beh, allora, della mia regione ovviamente mi manca la mia famiglia e i miei amici. Io sono cresciuto a Palermo e quindi mi manca tutto questo. E poi degli aspetti geografici, naturalistici, naturalmente mi manca tantissimo il mare, la spiaggia. Questa è una cosa tipica. Io tra l'altro vengo da un'isola, e quindi per gli isolani, cioè per le persone che sono vissute, che vivono in un'isola, il contatto ciclico con il mare rappresenta un elemento importante della propria vita. Consiglierei sicuramente di andare in Sicilia, perché è un posto affascinante, non solo perché non solo per chi cerca un turismo, come si dice, balneare, cioè va in cerca di spiagge, di un bel mare in cui farsi il bagno, perché in Sicilia il mare è splendido, ma la Sicilia è anche bella dal punto di vista culturale, perché è stata sede di conquista di diversi popoli, dai Fenici ai Greci, ai Romani, agli Arabi, e tutti hanno lasciato delle tracce che sono tuttora visibili. Quindi esistono le cattedrali arabe costruite nell'anno 1000, esistono delle reminiscenze della cultura greca, ci sono dei templi antichi, quindi la Sicilia offre un ampio repertorio, diciamo, di eventi culturali che un turista può sicuramente apprezzare. Ecco perché consiglio la Sicilia. Cina, sì. C'è qualche tradizione siciliana legata al Natale? Beh, la tradizione, allora, c'è una tradizione italiana che comunque non è molto diversa da quella che si celebra anche qui in Spagna. Normalmente a Natale, per il 25, si mangia tutti insieme con la propria famiglia, e in realtà gran parte delle famiglie preferiscono cenare il giorno prima, la vigilia di Natale, cioè il 24, che è il giorno in cui ci si scambia i regali. Le famiglie più religiose il 24 stesso vanno a mezzanotte, vanno a messa per celebrare la nascita di Cristo, cosa che io non faccio perché non sono una persona estremamente religiosa. E in realtà questo elemento è tipico della cultura italiana, e che è comunque molto simile a quella spagnola. Quindi il Natale è una festa religiosa che è uguale in tutti i posti in cui c'è una cultura cristiana, quindi anche in Italia e in Spagna. Bene, è stato un piacere parlare con te, Stefano, grazie mille. Grazie a voi dell'invito, speriamo di sentirci presto. Buonasera. Ciao. Infatti il Natale è alle porte, dunque parliamo adesso di questa tradizione che occupa un ruolo centrale nella cultura italiana. Tra le diverse modalità di celebrare il Natale ci occuperemo dei fallò, dei mercatini natalizi e dei vari tipi di presepe presenti in tutta l'Italia. Attenti ai nostri flash informativi che ci faranno viaggiare in diversi posti della geografia italiana. Dicembre, odore di castagne per le strade. Friuli Venezia Giulia, falò, fiaccolate e suggestive rievocazioni animano i giorni dell'Epifania. Tradizioni pagane e cristiane rivivono nei giorni dell'Epifania in Friuli Venezia Giulia. Protagonista il fuoco, dal mare alla montagna, un elemento rituale che accende il paesaggio con le luci di piccoli e grandi falò. La tradizione delle pile di fuoco vanta origini antichissime, celtiche. L'accensione dei fuochi era un rito che serviva ad allontanare influssi malefici e ad attirare la benevolenza delle divinità, rito che si è diffuso in seguito anche nella tradizione cristiana. Ancora oggi, in occasione dell'Epifania, vengono accesi grandi falò propiziatori, per lo più collocati sull'alto dei colli. Mentre bruciano, in base all'orientamento di fumo e faville, si traggono previsioni sul nuovo anno. Attorno la gente mangia la tradizionale pinza, una focaccina con farina di mais, pinoli, fichi secchi, uvetta, e beve un vino caldo aromatizzato con cannella e chiodi di garofa, una sintesi felice e genuina di questa antica festa. Emilia Romagna, una favola di acqua, luce e colori. A Comacchio, in provincia di Ferrara, c'è un presepe d'acqua, uno spettacolo di fontanelle d'acqua colorata e di giochi di luce dà vita alle sagome dei protagonisti della Natività sullo sfondo dei canali del centro, l'unico presepe d'acqua in Italia. Napoli, una terra dove Natale vuol dire presepe. Oggigiorno i mercatini natalizi forniscono un'ampia scelta di prodotti dell'artigianato locale e gastronomico e si vanno arricchendo di eventi ad essi correlati, che vanno dalle mostre, ai concerti, agli spettacoli itineranti, all'intrattenimento per i bambini. Ma ciò che rende unico l'evento del mercatino di Natale è il suo spirito, intatto di anno in anno, che permette di immergersi in un calidoscopio di musiche e colori, di sapori e profumi. E la città di Napoli è ricca di bellezze artistiche e paesaggistiche, e quella del mercatino natalizio può essere un'ottima scusa per visitare la città nel suo insieme. In questo periodo dell'anno vengono organizzati dei presepi viventi, soprattutto in piazza San Gaetano. Una visita d'obbligo è quella alla chiesa di San Lorenzo Maggiore, dove sono custoditi gusci di noce al cui interno sono ricostruiti minuscoli presepi. La via del presepe a Napoli è via San Gregorio Armeno a Spaccanapoli. Il legame tra la tradizione del presepe e Napoli è così esclusivo che il termine presepe napoletano indica ormai una realtà a sé. Il presepe napoletano vanta tra le sue statuine non soltanto i personaggi classici, Sacra Famiglia, magi, pastori e figuranti dei mestieri, ma la rappresentazione, spesso caricaturale, di personaggi famosi del passato e del presente. La Sicilia, arte e tradizione. La tradizione dei presepi viventi è particolarmente viva e diffusa in Sicilia orientale. La rappresentazione della Natività è un momento di intensa partecipazione popolare ed espressione artistica. Le figure che popolano il presepe riproducono gli antichi mestieri della civiltà rurale in Sicilia, legati alle attività contadine, all'artigianato locale, alla vita quotidiana. Accanto alle figure del passato siciliano, non mancano certo i personaggi tradizionali del presepe, come i re magi, che portano un tocco di esotismo con lo sfalzo dei loro costumi. Tanto per Natale. Dopo questo percorso attraverso le tradizioni natalizie in diversi punti dell'Italia, vorremmo fare gli auguri di buon compleanno a Radio Cinciglia, che nella vigilia del Natale del 1988 ha iniziato le sue trasmissioni. 20 anni di musica, informazione, compagnia e tante belle cose. Nel tuo 20° anniversario, auguroni, Radio Cinciglia. E a proposito di anniversari, anche nel 1988 è nato il Dipartimento Italiano della Scuola Ufficiale di Lingue. Sapevate che è da 20 anni che avete la possibilità di studiare l'italiano ad Albacete? E non solo, perché oltre alla lingua imparate aspetti culturali e della quotidianità italiana. Speriamo che il nostro Dipartimento continui per molti anni a diffondere e far conoscere la lingua e la cultura del bel paese. Tanti auguri! Purtroppo il nostro tempo a disposizione è scaduto. Vi ricordiamo che lunedì prossimo si terrà a scuola una giornata natalizia con tante sorprese. Speriamo di contare sulla vostra presenza. E ora vi salutiamo, augurandovi un sereno Natale e un felice anno 2009, ricco di magia, di bei momenti e di tante belle cose. Ciao! Natale.